известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Eccolo qua, il nitrito di Ombre Rosse, se mai ce n'è uno di film western, ma perché vi facciamo sentire i film western per un argomento, un problema che apparentemente non c'entra niente, invece adesso capirete per voce di uno che la sa lunga perché c'entra assai. E la questione è che può sembrare o non sembrare, ma il 2009, come dire, va avanti veloce, avanti spedito, si intravede già in fondo a un tunnel che è lunghetto ma non troppo, quel novembre 2010 in cui gli americani andranno a votare per le elezioni di medio termine, quello destinate a rifare la Camera dei Rappresentanti e parte del Senato, e il bipolarismo americano in questo momento non è veramente tale, una delle due zampe del tavolo, diciamo così, zoppica parecchio, abbastanza corta e malferma, ed è quella repubblicana. Il Partito Repubblicano, il Green Party, non si è ancora completamente rimesso dalla relativa scoppola, ma di fatto scoppola rimediata a novembre, non solo per il successo di Barack Obama, ma anche per quel successo a Camera e a Senato che ha garantito ai democratici un controllo pressoché totale del potere legislativo e naturalmente anche dell'andamento dell'amministrazione degli Stati Uniti d'America. La questione si va complicando, vanno cercate soluzioni, correttivi, novità, introduzione di nuovi personaggi, ma la soluzione non è facile, se non che a questo punto entrano in ballo i western famosi come Sfida Infernale. Shave, please. Well, we sure want to thank you, Mr. Earp. Wyatt Earp. What? You're not by any chance the marshal from Dodge City? Ex-Marshal. Wyatt Earp, il Marshal, lui precisa, ex-Marshal, ex-sceriffo di Dodge City. A modo suo anche di un articolo molto tagliente, pungente, ben scritto da David Brooks, re degli editorialisti del New York Times, che vi passo oggi a leggere perché dà informazioni interessanti. Si intitola Il lungo viaggio verso casa e dice: ai repubblicani di solito piacciono i western, ammirano gli eroi in stile John Wayne che sono ruvidi, individualisti, coraggiosi, e gli piacciono i leaders, da Coldwater a Reagan a Bush alla Palin, quei leader che mettono in campo la loro, appunto, discendenza western. Ai repubblicani piace come i western sembrino celebrare i loro temi forti, no? La libertà, l'individualismo, la trasparenza etica, la ricerca di opportunità. Eppure il più grande regista di western, John Ford, in linea di massima utilizzava quel genere di film per raccontare una storia diversa. Le pellicole di John Ford non mettevano in scena principalmente l'intenso individualismo, piuttosto celebravano l'ordine civico. Ad esempio, nel film di Ford del 1946, di cui abbiamo appena ascoltato un piccolo estratto audio, My Darling Clementine, Oh My Darling, vi ricordate? In italiano intitolato Sfida Infernale, c'è Henry Ford che per l'appunto interpreta lo sceriffo Wyatt Earp, quello che mise ordine nella turbolenta Tombstone, no? Ma il film non è incentrato sulle sparatorie e sulla audacia di quell'eroe, piuttosto è dedicato alla gente decente che aveva costruito quella città. Gran parte della storia racconta proprio come quei paesani si costruirono una chiesa, convinsero un maestro a traslocare da loro, come si divertissero con Shakespeare, come avessero assunto un chirurgo e migliorassero l'educazione in città. Il film, in sostanza, è sul tema della religione, dell'educazione, della scienza, della cultura, del galateo, della giustizia, pilastri della comunità. Nel film di Ford, come nella realtà, la storia del West e della sua conquista è la storia della edificazione di una comunità. Invece di celebrare la libertà e il pioniere, le opere di Ford scavavano in quei costumi sociali a cui gli americani sono affezionati, come darsi appuntamento, no, nella bottega del barbiere, o fare due chiacchiere con il barista o con il portiere d'albergo. Dunque, oggi, se i repubblicani hanno imparato la lezione che viene dai western, o almeno da quelli di John Ford, anche loro non cercheranno di essere il partito della libertà senza confini del massimo individualismo. Vorranno tornare a essere il partito dell'ordine civico. Vorranno ricominciare ogni giornata pensando alla cura con cui le persone hanno coltivato il loro quartiere e di quella grande rete di quartieri, infinita rete di quartieri che dà vita a una nazione. Poi si chiederanno cos'è che si contrappone alla volontà degli americani di costruire posti ordinati nei quali crescere i figli, e le risposte daranno vita a una vera e propria agenda. Si parlerà dei disordini provocati da una economia fatta di violenti alti e bassi, si parlerà della fragilità della famiglia americana, si parlerà della esplosione del debito pubblico e di quello privato, si parlerà dei sempre crescenti costi dell'energia, della inconsistenza del nostro sistema sanitario, della segmentazione della società e di come si sia dissolta la scala di mobilità sociale. Ma il Partito Repubblicano ha frainteso quella storia. Il partito sembra tagliato fuori a volte dalla realtà di una vita fatta di relazioni, no? Di buon vicinato. I repubblicani si sentono così tanto oggi il partito dell'individualismo, della libertà, che non incarnano più il partito della comunità e dell'ordine. Tutto ciò li mette, ad esempio, ad anni luce dai giovani, che invece hanno un forte senso della comunità e non gli dà alcun valido argomento da utilizzare con le classi meno fortunate, quelle convinte che il capitalismo sia completamente pazzo, e gli lascia anche poco da dire a quella classe benestante che è interessata all'ambiente e in altre cause collettive. I repubblicani parlano più di mercati che di società, più di redditi che di qualità della vita. Celebrano il capitalismo, che però è solo un mezzo, mentre si dimostrano analfabeti riguardo al concetto di buona vita, che invece è un fine. Considerano i tagli fiscali, che costituiscono uno strumento tattico, no, adatto a particolari circostanze, come invece un principio santo, santificato, da perseguire in tutti i modi possibili. L'enfasi sulla libertà individuale di scelta può anche funzionare, ma in zone semidesertiche del paese, in quei posti è naturale che la gente faccia quello che vuole quando si trova magari sulla propria terra, ma non vale per le aree densamente popolate, le città, i sobborghi, dove i repubblicani elettoralmente sono stati fatti ultimamente a pezzi. Gli abitanti di questi luoghi sanno che le loro vite sono influenzate dalle scelte praticate dagli altri. È gente abituata a preoccuparsi della qualità dell'ordine pubblico, e in questi luoghi i democratici sono riusciti a presentarsi come il partito, guarda caso, della sicurezza e dell'ordine. Obama ha fatto della responsabilità il suo motivo dominante e si è imposto con una personalità calma, rassicurante, anche se il debito è sempre lì e i problemi anche. I repubblicani, se vogliono risalire, devono allora riappropriarsi della qualifica di partito dell'ordine civico, devono fare una operazione di purificazione, devono a loro volta individuare un leader che sia calmo, prudente, rassicurante, ragionevole. Poi dovranno spiegare che esistono due teorie dell'ordine civico, una liberal, nella quale squadre di esperti vengono chiamate a elaborare piani capaci di restaurare l'ordine laddove nascano problemi, e poi invece c'è una visione più conservatrice, nella quale il governo fissa alcune poche regole, ma soprattutto delega i compiti a tutta quella rete di istituzioni nelle quali in fondo è radicato il mercato. Entrambe queste visioni oggi sono appannaggio del Partito Democratico. I repubblicani però sanno che devono cambiare, ma sembrano quasi prigionieri di vecchi argomenti che non funzionano più, e allora la soluzione va trovata nella devozione alla comunità e all'ordine, in quei famosi legami che hanno edificato la nazione. Tutto ciò, come vi dicevo, a firma di David Brooks, in questo secondo me notevole editoriale analisi dell'attuale società politica americana e degli equilibri che non trovano il modo ancora di restaurarsi, come del resto gli americani invece ci hanno per decenni abituati, e un editoriale sul New York Times di oggi con il titolo Lungo viaggio, il lungo viaggio verso casa. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, dwelt a miner, 49er, and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and sorry Clementine drove the ducklings to the water every morning just at nine. Hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. In my dreams she still doth haunt me, robed in garments soaked in brine. Though in life I used to hug her, now she's dead, I draw the line. How I missed her, how I missed her, how I missed my Clementine. Then I kissed her little sister and forgot my Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Beh, insomma, il servizietto l'abbiamo fatto completo, no? Un attacco western, non so se hai notato il cappellone. Che fantastico, testa, fantastico. E il gilerino con le frange per ospitare però questo valente editoriale di un giornalista in gamba come David Brooks, che è andato a ripescare John Ford e le radici, no, più profonde, più condivise d'America, come quelle rappresentate nel film western, per spiegare ai conservatori d'America, basandosi sulla convinzione, secondo me ampiamente condivisibile, che l'America sia right, sia un paese, no, di centrodestra, fondamentalmente conservatore, ma non tanto in senso politico, peggio ancora partitico, ma proprio come ispirazione, come successione e tramando di alcuni valori. Fino a qua per l'apertura. Nel frattempo le televisioni americane mandano servizi inquietanti nei quali spiegano, caro Emiliano, che gli hackers adesso possono accedere al tuo telefonino a patto che ne sappiano il numero, che poi non è difficile, è una cosa complicata da sapere. Da quel momento in poi possono sentire le sue telefonate, la faccia insomma di quella vecchia scuola, no? intercettazioni, fanno il tuo telefonino, poi faranno un codicillo qualsiasi e si sentono tutta la telefonata. Per fortuna per gli americani, che tra pochi minuti arriva Bernanke, il capo della Fed, a dare un bel aggiornamento sull'economia. Mica tanta fortuna. No, mica tanta fortuna, perché la faccia rappresentata nella foto non è la più incoraggiante. Ma noi invece passiamo al nostro consueto Express Yourself. E abbiamo rispolverato per volontà popolare, in un certo senso, il tema della febbre suina, anche perché qua le cose stanno così, siamo a un bivio: o siete più bravi voi della stampa media internazionale, cosa possibile, mondiale, cosa possibilissima, e ovvero quando in maggioranza ci avete detto ma che secondo noi è una bufala, avevate ragione, e forse le motivazioni di tutta questa storia della febbre suina erano altre, oppure ha ragione l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è estremamente prudente e continua a rilasciare comunicati che definire labirintici è poco, misterici, non so, comunque cose che parlano di una seconda ondata, che dicono che la pandemia si diffonde ma poi dopo sparisce e poi ritorna, momenti di quiescenza, qui noi abbiamo intitolato l'Express Yourself di oggi, perché poi non ci convincono particolarmente queste conferenze stampa, ditecela tutta, e vi abbiamo detto, vi abbiamo chiesto, ma insomma lo scetticismo è la solita forma di superficiale ignoranza, oppure gli enti preposti, a cominciare dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, stanno svolgendo in modo, diciamo, bizzarro i compiti delegati, è una bolla mediatica, cos'è questa storia delle ditte farmaceutiche con le azioni alle stelle? Voi ci avete dato i vostri pareri. Tanto Stefano, se anche se Facebook non funziona, Facebook ha la febbre, perché il nostro messaggio mandato in circolo come sempre di mattina presto è arrivato in realtà in rete intorno alle 14, quindi abbiamo soltanto due ore di tempo per recuperare non tantissimi messaggi, comunque sempre molto interessanti. Dicevo, a proposito invece del versante allarmistico, qualche giorno fa c'è stato un medico che ha detto attenzione, che anche la famosa spagnola, quella che fece più morti della prima guerra mondiale, come insomma, milioni, dopo milioni, il 18 partì in sordina in primavera e poi esplose tutta la sua drammaticità in autunno, e quindi insomma avvertiva a stare attenti. Chi invece non si lascia per niente influenzare e intimorire è Maurizio, nostro affezionato da Londra, che ci scrive puntualmente, ci manda una mail, dice illustrissimi, quindi troppa grazia per Maurizio. Lo scetticismo non è una forma di superficiale ignoranza, ma è nel capire il mondo quasi tutto, alla pari per importanza solo con la curiosità. Il che si traduce così riguardo anche la febbre suina, è giusto farsi convincere della gravità della situazione, ma solo quando la situazione è dimostrata veramente grave. Poi c'è Flavio che dice per ora sembra davvero il classico, qualunque cosa purché faccia paura e non si pensi alle cose serie, per esempio la crisi e quant'altro. Infine c'è Luigi che più o meno si inserisce nello stesso filone di scetticismo, di dietrologia persino, dice è solo una questione di priorità, perlomeno per i giornali italiani, ora c'è da fare le prime pagine sul presunto divorzio Berlusconi-Ilario, mica tanto presunto stando alle notizie di questi giorni. Del resto c'è questo personaggio, si chiama Keiji Fukuda, il vice direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ieri ha fatto una conferenza tutti asiatici, sì, dicendo quasi una cosa di questo genere: siamo ancora incerti, quindi partenza non, come dire, non è una notizia, sull'innalzamento del livello di allerta dalla fase 5 alla 6, la 6 è la massima, peste bubbonica come se piovesse. In ogni caso, dice sempre la signora, è bene ricordare che il passaggio al livello più alto non corrisponde a un aumento della gravità della malattia, bensì alla sua diffusione nel mondo. Ma insomma, i casi sappiamo quanti sono, da 100 a 1000 i morti sappiamo quanti sono, però stanno andando verso una qualifica di massimo allarme. Ma insomma, ma vabbè. Barbara ci scrive, facciamo che per una volta siamo positivi, diciamo che abbiamo imparato a cavarcela mediamente bene con le pandemie. Vabbè, un apprezzabile laico ottimismo. Claudio dice, ma il documento apparso su Facebook riguarda il virus creato in laboratorio, che ne pensate? Qual è il documento? C'era un documento che ci hanno mandato l'ascoltatore, che sostiene che insomma è tutto creato in laboratorio, come l'AIDS e tante altre malattie, insomma, che quindi c'è una manovra delle compagnie. Complotto. Mukeba, alla fine dei conti mi sembra tanto rumore per quasi nulla, l'influenza si cura facilmente e tutto va per il meglio, questo è quello che sembra anche vincere dai telegiornali, insomma gli italiani stanno per fortuna bene e anche in fretta. E ancora Matilde scrive, i cordoni sanitari si sono messi in moto, così la febbre suina non si è diffusa a livello capillare in tutti gli stati, più che gli enti preposti che hanno esagerato, a me sembra al massimo che i media abbiano pompato la notizia perché avevano come al solito bisogno di qualcosa che facesse scalpore. In sostanza, caro Emiliano, chi ha la febbre sono i media, è colpa tua, no? L'influenza ce l'hanno i giornalisti, vabbè. Ma tutti dicono così, è Dario, Anita, sono tutti sempre abbastanza d'accordo su questo, è la stampa bellezza, vai. Don't you think? It's like rain. sempre valenti anche i vostri messaggi che arrivano via sms al 349-238-6666. Qualcuno va letto, insomma, perché davvero vale la pena. Alberto, per esempio, ci dà una informazione preziosa, almeno per i nostri gusti. Insomma, Ombre Rosse, per Ombre Rosse, John Ford si sarebbe ispirato a un racconto di Guy de Maupassant, addirittura, e nel racconto, naturalmente, al posto degli indiani ululanti con la penna in testa, c'erano i prussiani. Dan ci fa notare che il 5 maggio fra poco sarà più festeggiato del 4 luglio, ma per che cosa? Per l'Inter, per la sconfitta dell'Inter, perché pare che ci sia una parte d'Italia che ormai ha santificato il 5 maggio. Poi Mac ci chiede notizie di Paolo e non è il solo, e presto ci attrezzeremo per dare soddisfazione ai paulisti di tutta Italia. E infine un altro ascoltatore ci dice: come mai nessun caso di febbre sull'isola di Fidel Castro, si chiede, però non dà una sua ipotesi, non ho capito, forse la febbre, una lettura comunista, post-comunista della febbre, forse. Ma noi però, proprio sull'argomento della febbre suina, della pandemia, non pandemia, dell'allarme mondiale e poi dell'allarme rientrato e quindi poi dello scambio di accuse, degli scetticismi e quant'altro, di cui abbiamo già parlato nello spazio di Express Yourself poco fa, ora andiamo a parlare con una giornalista che sta seguendo gli scenari dall'altra parte del mondo, ovvero a Hong Kong. Si tratta di una ospite frequente qui a Jefferson, si chiama Ilaria Maria Sala, da anni vive in Cina, collabora con molte testate come Wall Street Journal, Il Sole e lo stesso Sole 24 Ore, ha conoscenze specifiche su tanti campi di espressione orientale, a cominciare dalle religioni. C'è un suo libro che si chiama Il Dio dell'Asia, religione e politica in Oriente, edito dal Saggiatore, che è l'ultimo che ha pubblicato, e ora le chiederemo notizie di tutto ciò, ma prima tutto la salutiamo. Salve Ilaria. Salve. E prima di parlare di attualità e di febbre, vorremmo riportare in scena questo rapporto curato da Alessandro Politi, che si chiama Nomos e Caos. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, il rapporto Nomisma 2008 sulle prospettive economico-strategiche, di cui tu, Ilaria, hai coperto la parte cinese. Che cosa, in sostanza, che cosa potrebbe, dovrebbe, si suppone che succeda in Cina nel 2008? Il titolo del tuo spazio è Cina, successi e imprevisti dell'anno del topo, e c'è un paragrafo iniziale in cui semini, come dire, una serie di possibili dubbi sugli andamenti economici della Cina dell'annata. Parli di un partito comunista cinese che si prepara a affrontare il 2009 cercando di tenere sotto controllo variabili apparentemente impazzite, parli di un possibile aumento della instabilità e della tensione sociale, parli di un evaporare di parte delle ricchezze accumulate per contrastare il crollo delle esportazioni, di un rallentamento economico così improvviso da far temere la possibilità di un atterraggio duretto, insomma, sul duro terreno della realtà. Ma le cose sono così malferme dal tuo osservatorio, insomma? Ma tutto dipende da dove guardiamo. Se guardiamo rispetto a quello che succede nel resto del mondo, può sembrare che la Cina sia un'isola felice in cui la crescita continua ad essere forte. Se invece restiamo più locali, se guardiamo dunque quali sono i cambiamenti in Cina rispetto agli anni scorsi, è chiaro che quest'anno sta presentando delle grosse difficoltà rispetto appunto agli anni scorsi, e questo in un paese i cui governanti sono sempre alla ricerca di una certa legittimità che non è data loro naturalmente né dalle elezioni né da un'eredità rivoluzionaria, visto che l'attuale leadership non è più legata agli anni maoisti, agli anni della lotta contro il Giappone o contro il Kuomintang, e non è neanche una generazione di leader che può attribuirsi personalmente la crescita economica importante degli ultimi 30 anni, per cui ogni rallentamento economico, ogni nuova difficoltà che può sorgere vede sempre la leadership cinese impegnata nel cercare di mostrarsi in controllo, capace e soprattutto giustificare dunque in questo suo modo la sua presenza alle redini del paese. La congiuntura attuale naturalmente ha molti aspetti diversi a seconda di dove guardiamo. Pechino per esempio sembra relativamente immune ancora dal grosso impatto del rallentamento economico, che è invece molto violento in tutta quanta la regione del sud, del Guangdong, del Fujian, dove sono migliaia le fabbriche che sono state chiuse, certo, e sono invece milioni i lavoratori che si sono ritrovati disoccupati. Bisogna considerare però che per la Cina questo ha un impatto relativamente diverso da quello che potrebbe avere in altri paesi, dato che il grosso dei lavoratori ora disoccupati sono non abitanti delle città, ma sono lavoratori migranti, lavoratori dunque in un certo senso quasi stagionali, potremmo dire, che dall'entroterra cinese si recano nelle città costiere dove ci sono tutte quante le fabbriche che producono per l'esportazione e che ora si trovano invece a chiudere i battenti in molti casi. Tutto questo dunque non distrugge l'immagine che abbiamo di una Cina sempre più importante a livello internazionale, sempre più presente sulla scena mondiale e anche sempre più forte a livello economico, però rappresenta un significativo rallentare che dunque porta a galla una serie di altri problemi di natura, se vogliamo, sociale, di natura anche politica, in particolare in un anno come questo, il 2009, che è anche noto come l'anno di tutti gli anniversari. Abbiamo da un lato ora imminente l'anniversario del 4 giugno, della repressione di Tiananmen, poi dopo c'è invece il 1 ottobre l'anniversario del 60esimo il 60esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese e una serie di altri anniversari nel corso dell'anno. Finora la dirigenza cinese ha reagito imponendo fortissimi controlli, quasi senz'altro paragonabili all'atmosfera preolimpica, che molti osservatori reputano non si allenteranno fino almeno a dopo il 1 ottobre, quindi dopo il 60esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Ecco, Ilaria, a proposito di controlli, passiamo così al volo al secondo argomento della nostra breve conversazione. Abbiamo parlato, tu avrai sicuramente eco, dall'Italia di questo allarme che va e che viene, no? Un po' ondivago relativo a questa febbre suina. Un nostro caro collaboratore che si chiama Saro Capossoli ci ha anche mandato via mail delle fotografie che ha personalmente scattato negli aeroporti cinesi, foto di scanner che misurano la febbre, di persone che si incolonnano per essere analizzate. Insomma, è uscita questa agenzia che parla di rimpatrio in Messico dei messicani che erano da quelle parti dopo un periodo di quarantena. Insomma, vorrei uno stato delle cose dalle parti che tu osservi e frequenti. Che aria tira al riguardo? Naturalmente, visto che la grossa paura iniziale che si era avuta rispetto alla rapidità di contagio di questa febbre suina è andata via via scemando, appunto oggi mi sembra che la maggior parte delle persone siano piuttosto dell'idea che sia stato un falso allarme, sì, se non qualcosa, certo, di peggio, certo. Anche se parlare di sinistro mi sembra un po' eccessivo. Bisogna tenere conto che Hong Kong e la Cina sono i luoghi in cui si era abbattuta nel 2003 la SARS, certo, e questo ha comportato ha influenzato in modo molto significativo il modo in cui è stata affrontata ora la crisi della febbre suina, sì, dell'influenza suina. E rispetto a questo vanno dette un paio di cose fondamentali. Intanto è chiaro che ci si rende conto ora che probabilmente si sia trattato di un allarme eccessivo. Resta però il fatto che si tratta di un virus nuovo e davanti ai virus nuovi nel 2003 si era visto fino a che punto si poteva essere impreparati. Ora, le differenze fra le due malattie mi sembra che siano molte, che siano molto visibili. Quello però che successe in Cina e anche a Hong Kong all'inizio nel 2003 fu proprio che non si sapeva quello che sarebbe successo. La Cina all'epoca si comportò in modo che complicò le cose in maniera decisiva, dato che mantenne una totale segretezza su quello che stava effettivamente succedendo, in particolare nel sud. Si pensa oggi con una certa sicurezza che il luogo in cui la SAL si è incubata fosse il Guangdong, e a lungo, per diverse settimane, Pechino impose un silenzio stampa totale dicendo che non c'era questa malattia in Cina, sul territorio cinese. Gli unici dunque che invece se la dovessero sbrigare con la SAL furono le autorità di Hong Kong, che continua ad essere autonoma rispetto a Pechino, e Taiwan. Certo. E questo, naturalmente, questa segretezza, questa difficoltà provocò molto panico fra la popolazione, anche perché sappiamo oggi che la SARS è molto contagiosa quando il paziente è terminale, per cui i dottori e gli infermieri furono i primi ad essere contagiati. Dunque questo all'inizio fu una curva di apprendimento piuttosto complessa, piuttosto dolorosa, e quest'anno dunque le autorità cinesi e le autorità di Hong Kong hanno deciso di fare il possibile per non ripetere gli errori che erano stati fatti nel 2003, e secondo me anche c'era un po' il desiderio di mettere in atto, di verificare se il piano di emergenza che era stato formulato nel 2003 in caso che una nuova epidemia si fosse verificata funzionasse o meno, per cui c'è stato sicuramente. un correre ai ripari forse eccessivo, anche se invece questa febbre suina si fosse rivelata effettivamente sarebbe stato certamente ammirato, certo. Va bene, grazie, una lezione di prevenzione in sostanza quello che i cinesi hanno amministrato, anche sulla base di una lezione invece dolorosa come quella che hanno preso all'inizio del millennio con la SARS. Certamente le misure messe in atto da quelle parti, ad esempio anche soltanto negli aeroporti, sono ben superiori a quelle che possiamo riscontrare dalle parti di casa nostra. La Ilaria Maria Sala, giornalista del Sole 24 Ore, Wall Street Journal, diario, collaboratrice di queste testate, che scrive ormai da molto tempo da Hong Kong. Stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing we could call our own. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Ma mi dispiace Dan, mi dispiace il nostro ascoltatore che ci ha mandato una bella simpatica mail dicendo: ma avete visto che il 5 maggio è diventato, eccola qua, 5 maggio, fra poco sarà festeggiata più del 4 luglio, no? 4 luglio in America, insomma il giorno dell'indipendenza, ma lui non faceva riferimento alla batosta dell'Inter, la famosa doppietta di Poboschi, anche perché è sempre ricordo di un grande... E mi dice: ma no, io sono interista come quindi qualcun altro solo per questo di mia conoscenza qui da circa un metro da me. Si riferiva al Cinco de Mayo, per carità, noi non pensavamo che ormai grondasse tutta questa cultura da voi ascoltatori, insomma la battaglia de Puebla, la sconfitta dei francesi e quant'altro. Noi pensavamo a un volgare, più prosaicamente, segnalazione calcistica da parte di noto milanista agitatore. Scusate. Allora, un po' di notizie dalla Cina per riallacciarci anche a quello che ci ha appena raccontato da Hong Kong Ilaria Maria Sala. C'è per esempio un elemento che gli economisti guardano con molto interesse per capire se l'economia sta andando bene o male, e si chiama indice degli acquisti del settore industriale, cioè praticamente l'indice della fiducia dei responsabili degli acquisti delle aziende. Significa che se questi comprano, fanno ordini, vuol dire che il circolo virtuoso dell'economia si sta rimettendo in moto, in particolare per il settore manifatturiero, che sappiamo essere delicatissimo in tutto il mondo, ma in particolare anche in Cina. Nel mese di aprile rispetto a marzo è salito dal 44,8 a 50,1, e secondo gli economisti, quando il dato è superiore a 50 significa che siamo in una fase di espansione, almeno iniziale, della produzione, mentre sotto il 50 siamo in fase di contrazione. Quindi l'economia cinese si sta rimettendo in moto, evidentemente lo stimolo da 500 miliardi della fine dell'anno scorso messo in atto dal governo cinese sta dando i suoi frutti, anche se rimangono dati in controluce, perché è prevista un'ulteriore contrazione delle esportazioni, addirittura superiore al 20%, 22% nel periodo aprile-giugno, quindi rimangono ancora dei momenti di allerta per l'economia cinese. Oh, noi non vogliamo fare un torto a President Obama, che oggi è stato provvisoriamente non nominato nel corso del programma, quindi nell'ultimo minuto lo nominiamo vi annunciamo il prossimo cimento del 44esimo Presidente degli Stati Uniti d'America, che è una cosa piuttosto seria e anche piuttosto interessante da seguire, perché toccherà a lui nominare il prossimo giudice della Corte Suprema, perché se ne va a casa David Souter, un giudice peraltro molto interessante, molto indipendente, open minded, da testa aperta, capace di collocarsi sempre su posizioni assai interessanti da analizzare. Ha detto che con Washington, per quanto lo riguarda, basta così, vuole andare a passeggiare, a scalare montagne nel suo nativo New Hampshire, se ne va in ottobre, quindi ci vorrà un nuovo giudice. La scelta di un giudice della Corte Suprema non è una nomina da prendere sotto gamba, perché poi sta lì per tutta la vita, quindi meglio. Ma era quel posto bene, che si alteggiava anche per Hillary Clinton quando... Beh, sì, è una delle beh, insomma, diciamo che non a caso tra, non è un posto da poco, ma non a caso tra i potenziali, tra i possibili nominati ci sono fior di governatori degli stati. Quindi perché pare che Obama vorrebbe nominare un non giudice, cioè non un togato di professione? Pare probabilissimo che nominerà una donna, perché ce n'è una sola sui nove che compongono la Corte Suprema, ed è decisamente poco, tra l'altro è anche piuttosto anziana. Parrebbe opportuno che nominasse un membro di una delle tante minoranze che compongono l'America, ma questo secondo me è meno probabile. I nomi ci sono, c'è anche un toto giudice, ripeto, queste sono le persone che decidono come salvaguardare i principi della indipendenza dell'individuo americano, e soprattutto proteggerlo, no, dalla pressione della maggioranza. È un ruolo di grande interesse. La nomina arriverà a breve e ne torneremo sicuramente a parlare presto, anche con qualcuno che la sa più lunga di noi. Hai una volante? Un flash, visto che in questo 5 maggio abbiamo parlato anche di calcio e di sport incidentalmente. La Russia chiederà i mondiali di calcio del 2018. Putin ha già incaricato il ministro dello sport per avviare la richiesta formale di candidatura. La Russia che ospiterà già le Olimpiadi invernali nel 2014. Così rifanno l'alternanza Chicago. In mezzo a Chicago 2016, di cui abbiamo parlato ieri con Dario Ricci. Questa è Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Fabio Cantatori a Milano. La mail è jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook sono redazione Jefferson 2 per contattarci direttamente, o Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare ai nostri forum, sempre se il traffico non è troppo sulla grande rete che ci copre e ci tiene tutti prigionieri. Programma in replica a mezzanotte, in podcast sul sito della radio, in diretta dopo le 4, domani qui su Radio 24. Ci risentiamo.